verso il voto. Benvenuti al punto politico della giornata. Ancora pensioni all'Italia al centro del dibattito elettorale, ma anche il mancato confronto TV tra Silvio Berlusconi e Walter Veltroni. Il Cavaliere attacca il segretario del Partito Democratico, Vincenzo Miglietta. Su Alitalia rilancia, a giorni arriverà la cordata italiana sulle pensioni, attacca Veltroni e dice, parla a vanvera. Silvio Berlusconi alza i toni della campagna elettorale. Sul futuro della compagnia di bandiera il Cavaliere fa capire, ci sono importanti imprenditori che a breve usciranno allo scoperto. Io credo che non ci vorranno molti giorni e credo che poi questa cordata chiederà 3-4 settimane di tempo per una approfondita due diligence. Sull'eventuale partecipazione dei figli alla cordata italiana Berlusconi poi spiega. Ma nemmeno per sogno, adesso dico assolutamente no, perché visto che hanno approfittato tirando in ballo addirittura il conflitto di interessi, vieterei ai miei figli di partecipare in qualunque modo. Stessi toni sul nodo pensioni, Veltroni ci ha copiato e male, dice l'ex premier, perché la sua proposta sugli aumenti è a vanvera. Ha indicato un aumento a vanvera delle pensioni senza nemmeno fare i conti con le possibilità di bilancio. La nostra proposta invece, prosegue il leader del PDL, è condivisa dal Partito dei Pensionati, che ora sta con noi e prevede l'adeguamento al costo della vita di tutte le pensioni fino al livello di 1000 euro al mese. Veltroni ricorda i vecchi comunisti riciclati, dice ancora l'ex premier, che conferma a Palazzo Madama siamo avanti di 30 senatori. Il confronto TV poi, sono capace di stracciare chiunque, commenta Berlusconi. Fini a Radio 24 parla invece dell'Unione di Centro, votare per l'UDC, commenta, è come votare per Veltroni e Bertinotti. Saranno molti quegli elettori dell'UDC ancora indecisi che faranno quello che altri dirigenti di quel partito hanno già fatto, vale a dire appoggiare il Popolo della Libertà. Nel Partito Democratico Walter Veltroni insiste, le elezioni sono ancora aperte, il risultato non è così scontato, per Veltroni al Popolo della Libertà gli andrà di lusso se ci saranno 3-4 seggi in più al Senato. Mentre sulle pensioni il segretario del PD accusa il centrodestra di inseguire le sue proposte. Oggi è andato in televisione e ha detto: ah sì, il Partito Democratico ha fatto questa proposta, 1000 euro di pensione al mese. Non ha detto però ai pensionati italiani che questo costa un po' più di 20 miliardi di euro all'anno. E non ha detto dove li taglierà. Il segretario del PD è ancora in Sicilia, si dice contrario al voto di scambio, accusa il centrodestra di aver mal governato la regione. La destra ha fatto del male alla Sicilia nel corso di questi anni. Le ha fatto molto del male. E ha costretto questa terra a non crescere tanto quanto avrebbe potuto e dovuto. Dopo l'annullamento di Porta a Porta con Silvio Berlusconi, Veltroni si dice disponibile a qualsiasi confronto TV con il Cavaliere. Dove vuole, quando vuole, come vuole. Pronti a farlo. Vuole farlo sulle sue reti? Vado a farlo sulle sue reti. Ma non scappi. Sulle pensioni interviene anche il leader della sinistra arcobaleno Fausto Bertinotti. Minimo per tutte e tutti e poi indicizzazione adeguata all'aumento dei prezzi per proteggere le pensioni per come sono, salvo poi fare interventi diciamo più mirati. E il candidato premier socialista Enrico Boselli. Com'è possibile dire di no ad un aumento delle pensioni, come propone Veltroni, di 100 euro, 200 euro, 400 euro? Ci mancherebbe altro. Il problema è che chi si candida a governare il paese deve anche dire da dove prenderà quei soldi e tutti gli altri. Sull'Alitalia invece interviene la Lega, che sostiene la posizione di Berlusconi, Roberto Maroni. Noi ribadiamo la nostra totale contrarietà al piano di acquisizione perché prevede la sostanziale chiusura di Malpensa. Chiediamo che il governo respinga questo piano e imponga Air France, se vuole acquistare all'Italia, la moratoria di 3 anni sul trasferimento dei voli. Mentre Pier Ferdinando Casini sfotte Berlusconi, la cordata, dice Casini, partecipa alla campagna elettorale, dato che i nomi li darà il candidato premier del Popolo della Libertà. Francesco Storace della destra chiede invece che Berlusconi faccia chiarezza. Apprezzo l'opera di carità che vuol fare, però prima ha tentato di coinvolgere i figli su un'azienda che appartiene all'Italia. Adesso dice che scherzava e che serviva a fare un appello a delle aziende italiane. Fatto sta che siamo a zero, non si capisce nulla e credo che tutti abbiamo il diritto ad esigere certezza. Verso il voto finisce qui un saluto da Elisabetta Fiorito.